La C alla P A in compagnia di Giuso da Giuso. J U S O J U S O. Getterò, getterò. Senti, quando questa senti, non potevo frestare. Frista, spezza. Ma aspetta che vado al bagno. Senti, va. Senti, che questo bisogno. Che bisogno hai? Michi, quando vai al viale, chiamami. Oh, va bene. Cazzo. Ti chiamo credito. Sul numero strano. Ma che numero strano? Ho finito il creditano. Chiamo Gaetano. Fai un'altra scheda. No. Lascia che la gente veda. Dove sta questa festa? Questa storia deve finire. La storia deve finire. E se finisce, finisce. Se no la gente si ne bambisce. Ascolta bene questo. No. No, non mi nutre. Non si nutrisce nessuno. Ancora un minuto. Aspetta. Come i pu. Vai puffi. O vado io. Quando capisci non mi sputi. Come nel imbuti. Quando ci va dentro. La prima giusta. E mi chiamo. Faccio tanti giusti. Frista. Tosse. Hey yo! Butto il sangue su questa frista in quanto la mia mente smista, rima dopo rima, questa latrina che viene fuori dal mio cervello, cervello monnezza pronto all'appello. Ah, Caparezza ci sta, il gallo che sputa come un callo la sua fatica. Ah, la fica non dura mica tra le mie mani, si sa benissimo che il domani lascio che sia lontani, quindi manco li cani come l'ultimo dei moicani, rimango in pista io insieme al frato mio che si chiama Giuso, Giuso, Giuso, Giuso. E siamo insieme qui a uccidere l'innedia. Ci la uccidiamo con una sedia. Ci sediamo tutti quanti con il culo per terra e facciamo questa guerra. La guerra dei baci, la guerra delle carezze, la guerra di tutte le capperezze. Come noi che vogliono andare in giro a farsi ognuno i cacci suoi con la penna biro. Ah, la penna biro biro. Ah, stiro stiro. Ah, miro miro. In quanto capa capa rezza rezza. Ascolta sta schifezza. Adesso è una frista eterna quella che si squinterna dalle mie cervella, dal mio cervelletto che premo come un grilletto in questo momento stesso, in questo momento stretto insieme a Giuso prediletto mio discepolo. Adesso ascoltami bene perché come Castellano e Pipolo posso farti un varietà se ti va. In questo momento qua puoi credere che non è freestyle ma invece è freestyle. Sai il smile? Ah, sorridi, la candid è camera, quindi adesso cosa dici? Cosa ridi? Pensi che io sia un pivello? No no no no, non è questo ma è il mio cervello che viene fuori e sono dolore quando viene fuori insieme a Giuso. Ascoltami bene, non sono confuso. Abuso. Abusa di me se vuoi quel che penso, e questo te lo dico è senza senso. Ma noi il sangue ce l'abbiamo nelle vene. Cazzo è normale. Ma noi il frista ce l'abbiamo nelle vene. Adesso ha un senso pingue. Pingue. Pinguino. Dove quelli che si mettono il fiocchettino sul collo si credono di essere il migliore di noi, che invece andiamo da fuori con i capezzoli neri. Con i capezzoli neri e i peli. I peli sui capezzoli neri e sulla faccia. La faccia che poi ci consuma come questo frista. Duma. Duma, duma, duma, duma. Anzi, duma, duma, duma, duma, duma. Stasera esco. Ah, cosa? Sono piccante come tabasco. Quindi come tabacco mi infilo nelle tue narici. Cosa dici? Mocca Tecla rappresenta Giuso da Giusi la tormenta insieme alla C alla P a Caparezza. Caparezza se ne va, mi lascia solo e mi dice canta canta canta wanna canta. E tu canti sempre come fossi una persona io, con le idee va, va. Ma cosa dici, mi tronchi le gambe? Pingue.